Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Ci eravamo lasciati la volta scorsa alla fine della tremenda battaglia in cui due dei protagonisti di questo grande romanzo subiscono l'impatto della guerra. Nikolaj Rostov, ferito e assalito dai ricordi familiari, e Andrei Balkonski, triste e oppresso perché la guerra gli appare strana e così diversa da come se l'era immaginata. Intanto cala la notte e si chiude qui la seconda parte del primo libro. Riprendiamo oggi la nostra lettura con l'inizio della terza parte e siamo di nuovo a Mosca. Il principe Vassili non meditava a lungo i suoi disegni. E anche meno pensava a fare del male alla gente per trarne profitto. Egli era soltanto un mondano che aveva avuto fortuna nel mondo e di questa fortuna si era creato un'abitudine. Faceva di continuo, secondo le circostanze e secondo i suoi rapporti con le persone, una quantità di disegni e di calcoli, dei quali non si rendeva esatto conto, ma che costituivano il maggiore interesse della sua vita. A Mosca egli aveva Pierre sotto mano, e gli procurò la nomina a gentiluomo di camera, che allora equivaleva al grado di consigliere di Stato, e insistette perché il giovane andasse con lui a Pietroburgo e si fermasse in casa sua. Come a caso, e pur con la convinzione assoluta che doveva essere così, il principe Vassili faceva tutto ciò che era necessario perché Pierre sposasse sua figlia. Se il principe Vassili avesse meditato in precedenza i suoi piani, non avrebbe potuto avere tanta naturalezza di tratto, né tanta semplicità e familiarità nei suoi rapporti con persone situate più in alto o più in basso di lui. C'era qualcosa che lo attirava sempre verso gli uomini più forti o più ricchi di lui. Ed era dotato dell'arte rara di saper cogliere proprio il momento in cui doveva e poteva approfittare della gente. Pierre, diventato inattesamente ricco e conte Bezukhov, dopo la solitudine e la spensieratezza di poco prima, si sentì talmente assediato, occupato, che soltanto a letto gli riusciva di restarsene un poco solo con se stesso. Era obbligato a firmar carte, ad aver da fare con uffici pubblici del cui carattere non aveva un chiaro concetto, ad interrogare il suo amministratore su questa o quella cosa, a recarsi nella sua tenuta presso Mosca e a ricevere una quantità di persone che prima non volevano nemmeno sapere della sua esistenza e ora sarebbero state offese e dolenti se egli non avesse voluto vederle. Tutte queste varie persone, uomini d'affari, parenti, conoscenti, erano tutte egualmente ben disposte e affettuose verso il giovane erede. Tutte erano persuase in modo evidente e indubitabile delle alte qualità di Pierre. Più di tutti, il principe Vassili esercitò in quel primo tempo un'influenza sia sugli affari di Pierre che sulla sua persona. Dalla morte del conte Bezukhov non si lasciava sfuggire Pierre di mano. Il principe Vassili aveva l'aria di un uomo oppresso dagli affari, stanco, sfinito, ma cui la compassione non permetteva di abbandonare in balia della sorte e degli imbroglioni quel giovane senza difesa, figlio di un suo amico a Pretù e con una fortuna così enorme. «Su, amico mio, domani ce ne andremo finalmente», egli disse un giorno chiudendo gli occhi, battendogli con le dita sul gomito e con un tono come se quel che diceva fosse stato già da lungo tempo stabilito fra loro e non potesse essere stabilito diversamente. «Domani ce ne andremo. Ti darò un posto nella mia carrozza. Ne sono molto contento. Qui abbiamo finito tutte le cose più importanti. Io sarei dovuto partire già da un pezzo. Guarda che cosa ho ricevuto dal cancelliere. Gli ho chiesto qualcosa per te e sei stato iscritto nel corpo diplomatico e nominato gentiluomo di camera. Ora la carriera diplomatica ti è aperta». Malgrado tutta la forza del tono stanco e sicuro col quale furono pronunziate queste parole, Pierre, che aveva pensato così a lungo intorno alla carriera da scegliere, avrebbe voluto fare qualche obiezione, ma il principe Vassili l'interruppe. «Ma mon cher, io l'ho fatto per me, per la mia coscienza, e non c'è da ringraziarmi. Mai nessuno si è lamentato di essere troppo amato. E poi, tu sei libero, ci puoi rinunziare anche domani. Tu stesso vedrai ogni cosa a Pietroburgo, ed è ormai tempo per te di allontanarti da questi tremendi ricordi». «Ah, dimenticavo, aggiunse ancora il principe Vassili. Sai, mon cher, io avevo dei conti col defunto e così quel che ho ricevuto dalla proprietà di Riazan me lo trattengo. Tu non ne hai bisogno. Faremo poi i conti. Quello che il principe Vassili intendeva con le parole «dalla proprietà di Riazan» erano alcune migliaia di rubli di canone che egli aveva trattenuti per sé. A Pietroburgo, come a Mosca, un'atmosfera di persone tenere e affettuose circondò Pierre. Egli non poté rifiutare il posto, o piuttosto lo stato, perché non aveva nulla da fare, che gli aveva procurato il principe Vassili. E le conoscenze, gli inviti e le occupazioni mondane furono tante che Pierre provava anche più che a Mosca una sensazione di nebulosità, di fretta, la sensazione di un bene che si avvicinava sempre ma che non si compiva mai. Dei suoi amici scapoli di prima molti non erano a Pietroburgo. La guardia era partita per la guerra, Dolokhov era stato degradato, Anatol era in servizio militare in provincia, il principe Andrei era all'estero e perciò a Pierre non capitava né di passare le nottate come amava passarle prima, né di sollevarsi ogni tanto l'animo in cordiali discorsi con l'amico più anziano e stimato. Tutto il suo tempo lo passava in pranzi, balli e soprattutto dal principe Vassili, in compagnia della grassa principessa sua moglie e della bellissima Elena. Al principio dell'inverno 1805-806, Pierre ricevette da Anna Pavlovna uno dei soliti bigliettini con un invito. Pierre fu ricevuto da Anna Pavlovna con un'ombra di tristezza, che si riferiva evidentemente alla recente perdita che aveva colpito il giovane con la morte del conte Bezukhov. Pierre se ne sentì lusingato. Anna Pavlovna, che si trovava nello stato di eccitazione di un condottiero sul campo di battaglia quando gli vengono migliaia di idee nuove e tutte luminose che appena gli riesce di mandare ad effetto, Anna Pavlovna, nel vedere Pierre, lo toccò col dito sulla manica. E rivolgendosi a Pierre in francese, gli dice «Un momento, ho dei progetti su di voi per questa sera». E gettò uno sguardo ad Hélène e le sorrise. E poi chiede ad Hélène di tenere compagnia a Pierre. «E perché non vi annoiate troppo, eccovi il nostro caro conte, che non rifiuterà di seguirvi. Non è vero che è incantevole?» disse a Pierre, indicando la maestosa bellezza che si allontanava. «E quel tenue! Così giovane e tanto tatto, tanta magistrale padronanza di sé, questo viene dal cuore. Felice chi la farà sua! Con lei il meno mondano dei mariti occuperà senza volerlo il posto più brillante in società». Hélène sorrise. Pierre era così avvezzo a quel sorriso, tanto poco esso significava per lui, che non vi prestò nessuna attenzione. La zia parlava in quel momento della collezione di tabacchiere che aveva il defunto padre di Pierre, il conte Bezukhov, e mostrò la propria tabacchiera. La principessina Hélène chiese di guardare il ritratto del marito della zia, che era dipinto sulla tabacchiera. Pierre si sollevò con l'intenzione di fare il giro, ma la zia gli tese direttamente la tabacchiera dietro le spalle di Hélène. Questa si curvò in avanti, perché la zia potesse far passare il braccio e, sorridendo, si guardò intorno. Portava, come in tutti i ricevimenti, un vestito molto scollato davanti e di dietro, secondo la moda di allora. Il suo busto, che a Pierre pareva sempre di marmo, si trovava così vicino agli occhi di lui che involontariamente egli distingueva coi suoi occhi miopi la viva bellezza delle spalle e del collo. E gli era così vicino alle labbra che egli avrebbe solo dovuto chinarsi un poco per sfiorarla. Egli sentiva il calore del suo corpo, l'odore del suo profumo e lo scricchiolare delle stecche del busto ad ogni movimento. «Così voi finora non vi eravate accorto che sono bella?» pareva dicesse Hélène. «Non vi eravate accorto che sono una donna? Sì, sono una donna che può appartenere ad uno qualsiasi e magari a voi», diceva il suo sguardo. E in quel preciso momento Pierre ebbe la sensazione che Hélène non soltanto poteva, ma doveva essere sua moglie e che non avrebbe potuto accadere altrimenti. Tornato a casa, Pierre per un pezzo non poté dormire, pensando a quel che gli era accaduto. Ma che cosa gli era poi accaduto? Nulla. Aveva soltanto capito che quella donna che egli aveva conosciuta da bambino, della quale diceva distrattamente «sì, è bella», quando gli dicevano che Hélène era una bellezza, aveva capito che quella donna poteva appartenergli. «Ma è una sciocca. Io stesso ho detto che è una sciocca», egli pensava. «C'è qualcosa di brutto nel sentimento che ha risvegliato in me, qualcosa di proibito. Mi è stato detto che suo fratello Anatole era innamorato di lei e lei di lui, che c'è stata tutta una storia e che per questo hanno allontanato Anatole. L'altro suo fratello è Hippolyte, suo padre è il principe Vassili. Non è una cosa che vada bene», pensava. E nello stesso tempo che ragionava così, e anche questi ragionamenti restavano monchi, si sorprendeva a sorridere e aveva coscienza che un'altra serie di ragionamenti spuntavano dietro i primi e che nello stesso tempo egli pensava alla vacuità di lei e sognava che ella potesse diventare sua moglie, che potesse amarlo, che potesse essere tutta diversa da quel che pareva e che tutto quanto egli aveva pensato e sentito dire di lei potesse non essere vero. E di nuovo non vedeva più in lei la figlia del principe Vassili, ma vedeva tutto il suo corpo coperto soltanto dall'abito grigio. E tornava a dire a se stesso che era impossibile, che in quel matrimonio ci sarebbe stato qualcosa di abietto, di innaturale, di disonesto. Ricordava di lei le parole e gli sguardi di prima e le parole e gli sguardi di coloro che li vedevano insieme. Ricordò le parole e gli sguardi di Anna Pavlovna quando gli parlava della casa. Ricordò mille allusioni simili da parte del principe Vassili e di altri e fu preso da spavento all'idea d'essersi forse già impegnato a fare una cosa che evidentemente era cattiva e che non doveva fare. Ma nel momento medesimo che formulava a se stesso questa risoluzione, da un'altra parte della sua anima sorgeva l'immagine di lei in tutta la sua femminile bellezza. Il giorno dell'onomastico di Hélène era a cena dal principe Vassili un piccolo gruppo delle persone più intime, come diceva la principessa, amici e parenti. A tutti questi amici e parenti s'era fatto capire che in quel giorno doveva decidersi la sorte della festeggiata. Gli invitati erano a cena. La principessa Kuragina, una donna massiccia, imponente, che una volta era stata bella, sedeva al suo posto di padrona di casa. Ai suoi due lati erano seduti gli invitati più ragguardevoli, un vecchio generale, sua moglie, Anna Pavlovna Scherer. All'estremità della tavola sedevano gli ospiti più giovani e meno importanti, e là si trovavano quelli di casa, e Pierre ed Hélène vicini. Il principe Vassili non cenava, girava intorno alla tavola in un'allegra disposizione d'animo, sedendosi un momento ora presso l'uno, ora presso l'altro degli invitati. A ciascuno diceva una parola disinvolta e gentile, meno che a Pierre e ad Hélène, della cui presenza pareva non accorgersi. Il principe Vassili rianimava tutti. Le candele di cera ardevano luminose, luccicavano le argenterie, i cristalli, le acconciature delle signore, l'oro e l'argento delle spalline. Intorno alla tavola giravano i servi in livrea rossa. Si sentivano i rumori dei coltelli, dei bicchieri, dei piatti e l'animato brusio di parecchie conversazioni intorno alla tavola. Si sentiva un vecchio ciambellano che, a uno dei capi della tavola, voleva persuadere una vecchia baronessa del suo ardente amore per lei, che ne rideva. Ad un altro capo, il racconto dell'insuccesso di una certa Maria Viktorovna. Tutti ridevano molto. Soltanto Pierre ed Hélène stavano in silenzio, seduti l'uno accanto all'altra, quasi all'estremità inferiore della tavola. E sui visi d'entrambi splendeva un sorriso trattenuto, un sorriso di pudore di fronte ai propri sentimenti. La vecchia principessa, offrendo del vino con un malinconico sospiro alla sua vicina e guardando con irritazione la figlia, pareva che dicesse con quel sospiro: «Già, ora a noi due non rimane altro che bere del vino dolce, mia cara. Ora è tempo per questa gioventù di essere felice in modo così insolente e provocante». Fra i piccoli, meschini e artificiali interessi che tenevano legato quel gruppo di persone, era venuto a cadere il semplice sentimento di attrazione che due giovani belli e sani, un uomo e una donna, avevano l'uno per l'altra. E questo sentimento umano vinceva tutto e si librava su tutto quel chiacchierio artificiale. Gli scherzi non erano allegri, le novità prive di interesse, l'animazione evidentemente simulata. E non soltanto loro, ma anche i domestici che servivano a tavola pareva che avessero la medesima sensazione e dimenticavano l'ordine del servizio per guardare la bellissima Hélène col suo viso raggiante e il viso rosso, grasso, felice e inquieto di Pierre. Sembrava che perfino le luci delle candele si concentrassero soltanto su quei due volti felici. Pierre sentiva d'essere al centro di tutto e questa sua posizione lo allietava e lo intimidiva. Egli si trovava nello stato d'un uomo sprofondato in qualche occupazione. Nulla vedeva, capiva o udiva con chiarezza. Solo di tanto in tanto, inaspettatamente, gli balenavano nell'anima frammenti di pensieri e di impressioni. Sicché tutto è già finito, pensava. E come mai è avvenuto? Così presto? Ora io so che non per lei sola, non per me solo, ma per tutti, questo deve necessariamente accadere. Tutti costoro aspettano questo. Sono così sicuri che avverrà che non posso ingannarli. Ma come avverrà? Non lo so, ma avverrà. Avverrà di sicuro, pensava Pierre, guardando quelle spalle che splendevano proprio sotto i suoi occhi. Dopo cena, Pierre, dietro agli altri, condusse la sua dama in salotto. Spesso anche prima, durante l'ultimo mese e mezzo, era restato solo con Hélène, ma non aveva mai parlato d'amore. Ora sentiva che questo era necessario, ma non si poteva in nessun modo risolvere a quest'ultimo passo. Si vergognava, gli pareva di occupare lì, accanto ad Hélène, un posto non suo. «Non è per te questa felicità», gli diceva una voce interna. Questa felicità è per coloro che non hanno quello che c'è in te. Ma bisognava dir qualche cosa, ed egli cominciò a parlare. Le domandò se era contenta della serata. Ella rispose, come sempre, con la sua semplicità consueta, che quell'onomastico era stato uno dei più piacevoli per lei. Il principe Vassili, con passo indolente, si avvicinò a Pierre. Pierre si alzò e disse che era già tardi. Il principe Vassili lo guardò con uno sguardo severo e interrogativo, come se ciò che aveva detto fosse così strano che non si potesse neppure starlo a sentire. Ma subito dopo la sua espressione severa mutò, e il principe Vassili prese Pierre per il braccio, lo fece sedere e sorrise affettuosamente. «Che c'è, Liolia?» fece, rivolgendosi subito alla figlia, con quel tono negligente di abituale tenerezza proprio dei genitori che dall'infanzia hanno sempre vezzeggiato i figlioli, ma che il principe Vassili aveva acquistato solo con l'imitazione degli altri genitori. Il principe Vassili a un tratto borbottò qualcosa ed uscì. La vista del turbamento di quel vecchio mondano commosse Pierre. Si voltò a guardare Hélène. Anche lei pareva che fosse confusa e con lo sguardo dicesse: la colpa è vostra. Bisogna assolutamente fare il salto. Ma io non posso, pensava Pierre, e si mise di nuovo a parlare di cose solite. Il principe Vassili andò nell'angolo più lontano e sedette sul sofà. Chiuse gli occhi e parve sonnecchiare. La testa gli cadde giù ed egli si svegliò. Aline, disse alla moglie, allez voir ce qu'ils font. La principessa andò verso la porta. Passò oltre con aria significativa e indifferente ad un tempo e gettò un'occhiata nel salotto. Pierre ed Hélène stavano sempre seduti e discorrevano. «Sempre lo stesso», ella rispose al marito. Il principe Vassili si accigliò, fece una smorfia con un lato della bocca, le gote gli si misero a tremare con quell'espressione sgradevole, volgare, che gli era propria. Si scosse, si alzò, tirò indietro il capo e con passi risoluti, passando davanti alle signore, entrò nel salotto piccolo. A passi rapidi si avvicinò tutto lieto a Pierre. Il viso del principe era così insolitamente solenne che Pierre, vedendolo, si alzò spaventato. «Sia lode a Dio!» disse il principe. «Mia moglie mi ha detto tutto!» Con un braccio cinse Pierre, con l'altro la figlia. «Mia cara Liolia, sono molto, molto contento!» E la voce prese a tremargli. «Io volevo bene a tuo padre, e lei sarà una buona moglie per te. Che Dio vi benedica!» Abbracciò la figlia, poi di nuovo Pierre, e lo baciò con la sua bocca dall'alito cattivo. Le lacrime gli bagnarono realmente le gote. «Principessa, vieni qua!» gridò. La principessa venne e cominciò a piangere anche lei. Baciarono Pierre, ed egli più volte baciò la mano della bellissima Hélène. Dopo un po' di tempo li lasciarono di nuovo soli. Pierre teneva in silenzio la mano della sua fidanzata e guardava il suo bel seno che si alzava e si abbassava. «Hélène», egli disse forte e si fermò. «In questi casi si dice qualcosa di particolare», pensò, ma non poté in nessun modo ricordare che cosa propriamente si dicesse in quei casi. La guardò in viso. Ella gli si fece più accosto. Il viso le si era importurato. «Ah, togliete questi...» e mostrava gli occhiali. Pierre si tolse gli occhiali, e i suoi occhi, oltre alla solita strana espressione che hanno gli occhi della gente che si leva gli occhiali, avevano uno sguardo spaventato e interrogativo. Egli voleva chinarsi sulla sua mano e baciarla, ma ella, con un rapido e brusco movimento del capo, gli fermò le labbra a mezz'aria e vi impresse le sue. Il suo viso colpì Pierre per la sua espressione mutata e sgradevolmente smarrita. «Ormai è tardi. Tutto è finito. E poi l'amo», pensò Pierre. «Je vous aime», disse, ricordandosi ciò che si deve dire in simili casi. Ma queste parole risuonarono così meschinamente che egli si vergognò di se stesso. Dopo un mese e mezzo, egli era sposato e si stabiliva, felice possessore, come si suol dire, di una bellissima moglie e di vari milioni, nella grande casa dei conti Bezukhov a Pietroburgo, tutta rimessa a nuovo. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it. Thank you.